Sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 24 dicembre, il sole in regione sorto alle 7.48 e tramonterà alle 16.26. Pian piano le giornate iniziano ad allungarsi. La luna è calante, siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Lillo Montalto Monello e Armando Mucchino. I titoli. Il pane invenduto torna utile per la fabbricazione della birra, un'esperienza cividale che sposa sostenibilità e lotta allo spreco alimentare. La magia della vigilia del Natale nelle case contadine di una volta nella storia di Angelo Floramo. Concimare poco e bene gli alberi da frutto, un vademecum per fare al meglio un'operazione strategica per la salute e la produttività. Tempo di feste e tempo di spumante, i consigli per stapparlo e degustarlo al meglio nella rubrica dei sommelier. Sulle tavole del Natale in arrivo i piatti tradizionali che abbiamo conservato nella nostra cultura. Volete conservare al meglio anche dopo le feste la rosa di Natale, che un po' tutti abbiamo in casa in questi giorni? I consigli nella rubrica della floricoltura. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Può fregiarsi del marchio regionale Io Sono Friuli Venezia Giulia, il progetto, che è già realtà, che investe il mondo della birra regionale con un approccio che sposa sensibilità ambientale e lotta allo spreco alimentare. Progetto che passa sotto il nome di Pan Birretta. Ce lo illustra Umberto Marangoni, responsabile del progetto al birrificio Forum Miuli di Cividale. Che ci azzecca il pane? Il pane ci azzecca perché viene utilizzato del processo produttivo della birra in sostituzione del malto. Stiamo parlando di pane invenduto, quindi pane, dovete raccoglierlo. Assolutamente, anche pane invenduto, che ce n'è fin troppo. Noi abbiamo una serie di confettori che ogni giorno stanno aumentando, stiamo parlando di panifici, di ristoranti, di alberghi, di bar, che non potendo più utilizzare il pane dopo le 24 ore, sono costretti o a gestirlo come un rifiuto, oppure decidere di, con grande senso di responsabilità, di partecipare al progetto Pan Birretta, conferendo il pane che noi andiamo a ritirare. Come entra nel processo produttivo questo pane? Nel processo produttivo, allora, c'è una cosa importante da dire a monte, che il pane ha del sale dentro, che durante il processo dà molto fastidio. Noi stiamo cercando di brevettare un procedimento che si chiama bread washing, dove andiamo a fare dei piccoli lavaggi del pane per togliere il sale. Dopodiché il pane viene messo nella fase di ammostamento insieme agli altri ingredienti, quindi il malto, durante, diciamo, il processo di ammostamento. E cosa sostituisce? Il malto. Quindi c'è un risparmio sul malto, che è uno dei prodotti a più alto valore aggiunto nel processo? Assolutamente, diciamo che nel processo il pane viene a sostituire circa il 30% del malto, e questo che cosa significa? Non solo risparmiare della materia prima, che è preziosa, ma significa coltivare meno terreni. Noi tra l'altro siamo un birrificio agricolo, significa coltivare meno terreni e sprecare molta meno acqua che serve per l'irrigazione. E questa birra è già pronta? Si può già bere? La birra è già pronta, si può bere presso i locali dei conferitori e poi anche, diciamo, sul territorio regionale all'interno di un marchio importante di grande distribuzione. Voi siete un birrificio molto attento alla sostenibilità ambientale. Assolutamente. Noi a Cividale abbiamo recuperato una vecchia falegnameria storica, dove abbiamo realizzato questo impianto da 10 ettolitri e una taproom per andare a degustare tutte le birre, diciamo, artigianali che noi facciamo. Disponiamo di un impianto fotovoltaico di 450 kW e di una centrale a biomassa che recupera gli scarti di lavorazione del legno. Con questi due sistemi noi siamo completamente autonomi nella gestione del processo produttivo. Quindi Pan Birretta, una birra all'insegna del risparmio energetico, dell'ecosostenibilità e soprattutto anche un marchio, diciamo, nuovo, molto suadente per il mercato. Sì, il nome simpatico attira l'attenzione, abbiamo voluto cercare di dare un nome che facesse capire subito di che cosa si tratta, no? E quindi Pan Birretta, è logico che è una birra fatta col pane, quindi pane che acquisisce un nuovo valore e ci ritorna indietro in forma liquida e crea nuovo valore aggiunto, perché anche i conferitori riacquisteranno la birra da vendere nei propri punti. In Italia ci sono stime che dicono che di pane in venduto ce n'è 1300 tonnellate al giorno. Quanto pane utilizzate voi per una cotta di birra? Diciamo che per una cotta utilizziamo mediamente 80 kg per fare 1000 litri di prodotto. C'è stato un tempo in cui questa notte conservava un significato denso di simboli e di suggestioni in seno alla civiltà contadina. Lo scrive Angelo Floramo, che ci racconta così la magia della vigilia di Natale nelle case contadine di un tempo. La veglia, questo significa vigilia. Attendere con anima vigile che la notte passi e torni a risplendere la luce, a oriente. Nel nostro immaginario collettivo la vigilia di Natale rappresenta un tempo gravido di significati. Forse perché è al sapore della nostra infanzia, quando ancora eravamo disposti a credere nella magia delle favole. Continua ad esserlo anche oggi, in questo nostro tempo veloce e distratto, che si ostina a snaturarne il respiro, addomesticando il mito e il rito in un banale lustrino da supermercato, uccidendone perfino il tempo, dal momento che Natale brilla ormai da qualche mese sugli scaffali consacrati al dio del consumo. E prima ancora che il suo momento finisca, lo condividerà con i coriandoli del carnevale. Eppure c'è stato un tempo in cui questa notte conservava un significato denso di simboli e di suggestioni in seno alla civiltà contadina. Prima ancora che le campagne diventassero cristiane, questa era la notte del solstizio, nel cui grembo il sole comincia a rinascere acquistando forza e vigore. I nostri vecchi ne avevano ereditato tutta la sospesa suggestione. Chiedevano ai quattro elementi cosmici di intrecciarsi nelle lunghe ore delle tenebre fino ad essere una trama capace di rinnovare il mondo, dandogli una speranza nuova. Si accendevano i fuochi, l'acqua veniva benedetta, l'aria si addensava nei vapori del fiato delle bestie, anche loro in ascolto dei presagi che si palesavano come altrettante epifanie. La terra aveva il profilo del legno, messo ad ardere sul piano del fogolar, là dove continuava a brillare, fra le braci che non si dovevano spegnere mai, lo spirito degli antenati. Ben lontana dagli sprechi alimentari con cui oggi si celebra questa festa, la tavola della vigilia era imbandita secondo il precetto di Magro, facile da ottemperare per chi lo rispettava, per necessità, durante buona parte dell'anno. Se si poteva celebrare il rinnovamento del tempo con una scodella di brodo fumante, dentro al quale sbriciolare qualche crosta di pane, e versare mezzo bicchiere di vino, era già una festa. Però si cantava, anche a stomaco vuoto. Una pastorale della tradizione dice che in questa notte la luna brilla come il sole, e i prati sbocciano di rose e di viole. I bambini avrebbero faticato a prendere sonno, pregando di poter trovare i doni tanto attesi l'indomani, una calza piena di noci, nocciole e bagigi, appesa alla maniglia della finestra qualche profumata coppia di mandarini, che da soli facevano il profumo della felicità. Concimare poco e bene, questo è il consiglio del professor Raffaele Testolin per le nostre piante da frutto. Sì, ma come? Ce lo dice nella sua rubrica di oggi. Sembra che la concimazione delle piante da frutto sia la preoccupazione più importante per gli amatori. Non parlo di frutticoltori professionisti che generalmente conoscono le asportazioni dal terreno da parte delle diverse specie e si regolano di conseguenza. Parlo di amatori. Ebbene, due parole a questi amici. Se al momento della messa a dimora del vostro albero da frutto avete mescolato al terreno del buon letame maturo, finché non c'è produzione di frutta potete scordarvi la concimazione. Quando il vostro albero inizia a produrre, potete intervenire ancora con letame o concime organico, oppure, se vi va di usare del concime chimico, usate un po' di concime ternario a base di azoto, fosforo e potassio. Se c'è anche qualche microelemento come magnesio o altro, non preoccupatevi, ci può stare. Quanto distribuirne? Difficile dire. Cominciate quando avete le prime produzioni con mezzo chilo di complesso distribuito a fine inverno. Quando la pianta è grande potete arrivare a 2 chili per pianta. Vedo già i frutticoltori professionisti inorridire per l'approssimazione. Allora questa è la regola per tutti. Calcolate la produzione, cercate un manuale e vedete per la vostra specie da frutto le asportazioni per quella determinata produzione. Raddoppiate il fosforo perché nei nostri terreni viene immobilizzato. Quella è la dose annuale di concime che dovete distribuire a fine inverno. Se poi volete la perfezione, anziché distribuire l'azoto in un solo colpo, frazionatelo in 2-3 volte durante la stagione. Per la rubrica dei sommelier oggi Vladimiro Tulisso inevitabilmente ci parla di spumanti. Cosa sono, cosa contengono e che caratteristiche devono avere per essere considerati tali? Natale e Capodanno restano occasioni imperdibili per stappare una bottiglia. Molte di queste saranno di spumante, una tipologia di vino che in Italia nel 2023 potrebbe raggiungere il miliardo di bottiglie vendute. Quindi brinderemo tutti, ed è per questo che vorrei ricordare alcune piccole regole per apprezzare al meglio gli spumanti. Intanto iniziamo dalla tipologia. I vini spumanti si possono produrre con diverse tecniche che determinano la qualità finale e anche il costo. Iniziamo con i vini spumante metodo Martinotti, dal nome dell'italiano che nel 1895 e per primo ha messo a punto la tecnica di lavorazione. Volendo potremmo chiamarlo anche metodo Charmat, in onore del francese che il metodo intelligentemente l'ha brevettato. Gli spumanti metodo Martinotti sono preparati partendo da vini base posti all'interno di autoclavi assieme a zucchero e lieviti. Gli organismi unicellulari, cibandosi degli zuccheri, producono alcol e anidride carbonica che crea una pressione nel liquido regalandoci le bollicine. Dopo un periodo di diverse settimane o alcuni mesi, il liquido, attraverso tecniche in grado di non disperdere la pressione che contiene, finisce in bottiglia e arriva sulle nostre tavole. Gli spumanti metodo Martinotti hanno colori tenui, profumi vivaci, non troppo aromatici, sapori freschi e bollicine il più delle volte grossolane e veloci a esplodere. L'altro modo di arrivare alla spumantizzazione è il metodo classico. Si parte sempre da uno o più vini base, che però vengono posti direttamente in bottiglia, sempre assieme a zucchero e lieviti. È il metodo con cui in Francia, dal 600, si produce lo champagne. La rifermentazione avviene quindi in ogni singola bottiglia, e questo è un grande valore, e i tempi di produzione si allungano da decine di mesi fino a molti anni. L'esito è un vino raffinato, dai profumi complessi che ricordano la crosta del pane, le brioche, la frutta secca, accompagnate da un effetto di bollicine sottili e lente nella loro risalita nel bicchiere. Comprendiamo pertanto che le due tecniche produttive danno esiti diversi. Con il Martinotti si ottengono prodotti più semplici, con il classico più eleganti. Un'ultima raccomandazione. Per accumulare la pressione del vino in bottiglia c'è stato bisogno di tempo e lavoro. Perché sprecare tutto sparando il sughero e disperdendo l'energia che alimenterà la danza delle bollicine nel bicchiere? Ricordiamoci pertanto che gli spumanti vanno gustati con la bocca e non con le orecchie. Sulle tavole delle feste di Natale arrivano soprattutto i cibi della tradizione che siamo riusciti a conservare, come ci dice Michele Urbano. La vigilia di Natale è quel momento speciale, quello in cui riusciamo ad apprezzare persino il freddo pungente che ci intorpidisce le dita. Abbiamo rimesso in riga le ricette, definito il menù e riempito l'ultimo barattolo di biscotti. L'atmosfera che si crea ci predispone all'attesa. C'è una festosa frenesia nell'aria, l'albero si accende e con esso i ricordi, spesso fatti di alberelli spogli e profumo di mandarini. Oggi voglio aprire assieme a voi le ante di una dispensa un po' speciale, quella dove vengono conservate anche le nostre tradizioni. Chissà se in qualche casa questa sera verrà acceso il nadalin o zoc o cioc, quel grosso ceppo di legno che veniva un tempo accuratamente selezionato durante l'anno e ben stagionato affinché assicurasse un fuoco benaugurante fino al Capodanno se non l'Epifania. Il mantenimento delle tradizioni crea un forte legame nella storia familiare, un ponte tra passato e presente, dove odori, colori e sapori diventano una continuazione di abitudini e rituali. Colmano distanze ed assenze, rafforzando il senso di appartenenza. È proprio questo senso di appartenenza che mi porta ad immaginare che in alcune cucine della nostra regione Oggi vapori aromatici annunciano la cottura del baccalà per la cena di magro della vigilia, mentre in altre sobbollono lentamente le trippe fatte con la passata di pomodoro, quella buona, amorevolmente conservata in dispensa per le occasioni speciali. In questo piccolo compendio dell'universo, volendo citare Ippolito Nievo, domani sicuramente non mancheranno sulle tavole a festa le eccellenze agroalimentari della nostra regione: prosciutti, insaccati, formaggi, cereali e verdure fermentate andranno ad allestire il banchetto del Natale, creando un menù vario e fortemente identitario. Da questo breve racconto gastronomico si evince quanto l'arte della conservazione sia profondamente radicata nella nostra cultura alimentare. Tocin Braide, Iote, Chiarcions, Brovade Musette, Capuzzi Garbi e molto altro non sarebbero tradizione oggi se i nostri avi non ci avessero tramandato i metodi più efficaci per la loro conservazione. Ha ragione, oggi abbiamo vestito la dispensa a festa, rendendole grazie per ciò che essa custodisce. Mentre qualcuno inforna l'ultima soffice cubana o un delizioso Presnerz, io auguro di cuore a tutti un sereno Natale. Chi non ha in questi giorni in casa una stella di Natale? Passate le feste, bisogna però saperle come conservare al meglio, magari anche per il prossimo anno. Ci dice come Alessandro Squizzato. La stella di Natale non la prendo perché perde subito le foglie. La stella di Natale dura da Natale fino a Santo Stefano. Non compro più le stelle di Natale perché dopo due giorni mi muoiono. L'abbiamo sentito dire spesso. Apro le pagine social e leggo pubblicazioni in cui le persone sono malcontente di questa specie, che a mio avviso è una delle piante più belle in assoluto. Che sia una pianta delicata, complicata e capricciosa, nessuno lo mette in dubbio. Ha bisogno di un luogo luminoso, lontano da fonti di calore come termosifone. Soffre il freddo, perciò va tenuta in casa, al caldo, lontano da correnti d'aria. Bagnatura una volta a settimana. Irrigazioni da sotto riempiendo il piattino e svuotandolo dopo 30 minuti. Le solite frasi che ci vengono sempre ripetute e che ormai sappiamo a memoria. Vorrei però precisare alcune cose e darvi altri suggerimenti e accortezze che potrebbero aiutarvi a dare alla vostra stella di Natale una durata ben oltre le feste. La temperatura ideale di mantenimento per le stelle di Natale si aggira tra i 16 e i 18 gradi. Più alta sarà e prima la pianta raggiungerà la maturazione e quindi la sfioritura. Ricordate, infatti, che il colore si manifesta man mano che la pianta raggiunge la maturità. Questa poi perderà le foglie e in primavera ne rimetterà di nuove. Un indizio utile per scoprire se la pianta è troppo matura è la presenza dei ciazzi, quei piccoli bottoncini al centro dello stelo floreale, che sono i veri fiori di questa pianta. Una stella senza i ciazzi, o con i ciazzi che cadono, ciò non significa che nel negozio dovrete scuoterle, ma vi basterà limitarvi all'osservazione. È sinonimo di pianta troppo matura, e con una durata che quindi potrebbe essere limitata. Se le temperature esterne lo permettono, 7-8 gradi sopra lo zero, posizionatela per 1-2 ore fuori. Ciò rallenterà il processo di maturazione, facendola durare più a lungo. Portare a casa questa pianta all'inizio di dicembre o addirittura a fine novembre vi assicurerà di avere piante più fresche, appena uscite dalle serre di coltivazione. Bagnate la stella di Natale solo a pianta asciutta. Per capirlo bisogna sollevarla e constatarne il peso. Non fatevi ingannare dal trucco del dito nel terriccio, perché molte volte la pianta potrebbe essere ancora ben bagnata alla base del vaso. È meglio non esagerare mai con l'acqua. È preferibile correggere bagnando una volta in più, piuttosto che ritrovarsi un terreno troppo inzuppato, che sarà davvero complicato da far asciugare in caso di insorgenze di problemi. Se siete incerti su quando irrigare, osservate le foglie. La pianta vi dirà quando bagnarla. Se queste piegano leggermente verso il basso e il vaso inizia a pesare poco, devono esserci entrambi questi due elementi, irrigate. Non travasatela in vasi più grandi appena comprata, perché non è il periodo adatto. Effettuate il travaso verso aprile-maggio, durante la ripresa vegetativa. E con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari. Venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole delle Camere di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 20 e 40, 20 e 70 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 20 e 50, 21 euro, l'orzo peso specifico 62-65 tra 20, 20 e 50 e la soia tra 45-30, 45-80. Rispetto ad un anno fa, il mais è diminuito di 11 euro il quintale e la soia di 8,20. Discrete le contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine, però non come dovrebbero essere durante le feste natalizie, con prezzi leggermente in rialzo. L'insalata gentile viene quotata da 1,80 a 2 euro il chilo, IVA esclusa, la lattuga trocadero da 2,50, i finocchi da 1,60 a 2 euro, la scalora riccia da 2,80 a 3 euro, le spinaci da 2,80 a 3,50, i cavoli da 2,60 a 3 euro, il radicchio rosso tondo e quello di Treviso precoce da 1,50 a 2 euro, le arance da 1 a 2 euro, le clementine italiane da 1,80. Per le condizioni meteo favorevoli nel settore della pesca l'attività è proficua e i prezzi, anche in occasione delle festività, sono sostenuti. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono da 15 a 32 euro il chilo IVA esclusa, le orate da 10 a 20, le sogliole da 10 a 30, le canocce da 8 a 20, i palombi da 7 a 15, mazzancolle da 10 a 24, i gamberi da 25 a 30, le capesante da 20 a 30, le seppie da 8 a 13, i calamari da 14 a 22 e le anguille da 25 a 31 euro il chilo. La Commissione Camerale di Pordenone e Udine ha determinato in questi giorni il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 48 e 50 e 50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, in leggera ripresa il settore degli avicunicoli, il valore dei polli a terra varia da 1,37 a 1,39 euro il chilo IVA esclusa, i capponi natalizi tra 4,90 e 5 euro, le anatre da 3,46 a 3,50, i tacchini maschi da 1,70 a 1,72, le tacchine mini tra 3,49 e 3,51, i conigli oltre 2,5 kg da 3,08 a 3,14, le uova oltre 73 grammi provenienti da alimenti a terra sono 21 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. Dicembre finora si è presentato con temperature medie abbastanza in linea con i valori medi trentennali sulla pianura. Leggermente più elevati invece sulla costa per l'assenza di bora e per il mare ancora caldo, sotto la media nei fondovalle montani per l'inversione termica e invece decisamente più elevati con 1,5 gradi in più sui monti in quota. Nei prossimi giorni l'anticiclone di origine tropicale si estenderà su gran parte dell'Europa con masse d'aria piuttosto miti per il periodo. Lo zero termico si manterrà infatti ben oltre i 3.000 metri di quota. Tali condizioni favoriranno ancora inversione termica nei bassi strati dell'atmosfera, con l'accumulo anche di umidità. Avremo quindi da domani Natale fino a giovedì tempo migliore con cielo poco nuvoloso variabile sui monti ad alta quota con temperature anche miti, specie di giorno. Cielo da nuvoloso a coperto con foschie su pianura e costa. Sulle zone orientali, specie a Trieste e sul Carso, il giorno di Santo Stefano saranno possibili anche delle piovigine e le temperature rimarranno stazionarie. Verso la fine della settimana è probabile che il cedimento dell'anticiclone lasci spazio all'ingresso di fronti atlantici e di una depressione, che probabilmente provocherà un peggioramento, piogge su pianura e costa, nevicate forse anche abbondanti in montagna, a partire da 800-1000 metri di quota circa. Per le previsioni del tempo di San Silvestro e di Capodanno, occorre comunque seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni, per capire se avremo o no una pausa fra il passaggio delle perturbazioni atlantiche in spostamento verso l'Europa. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi a un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Stelis tegno de Nadal, pomis culpesenal, ovvero stelle la notte di Natale, quindi cielo sereno, la stagione porterà frutto in abbondanza e servirà un grande paiolo, il pesenal appunto, per trasportarli. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montalto Monella, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima augurandovi buone feste. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.